con Diego Labonia, direttore della terza edizione del RGB Light Experience Festival Light Art Back to the Future, questo è il titolo, a Roma dal 7 al 9 dicembre. Diego, ben trovato. Ciao a tutti, ciao a te. Ci spieghi cos'è? Allora, è un festival, siamo giunti alla terza edizione quest'anno, è la prima volta che lo facciamo in questo periodo dell'anno, il 7, 8 e 9 dicembre nel quadrante tra Pigneto, Maranello e Turpignattara. È un festival dove sono presenti artisti che lavorano con la luce e con il video fondamentalmente. Abbiamo sia artisti italiani che internazionali quest'anno. Siamo riusciti a portare Yasushiro Shida, giapponese, con due installazioni, oppure anche Fabrizio Cicero che fa una site specifica apposta quest'anno per noi, Ricordo Semisolido. I MediaMesh che ritornano, sono stati anche l'anno scorso, una bellissima installazione, quest'anno fanno un'installazione al chiuso dentro il Teatro Studio 1 a Turpignattara. Kai van der Puy, finlandese, che presenta 1.11 Hz, è un'installazione molto particolare di questo professore finlandese. Miton Optic, un gruppo russo, anche loro fanno una videoinstallazione. E i Volna che fanno invece un'installazione laser al Cinema Impero. Insomma, abbiamo 24 installazioni suddivise, diciamo, più o meno su 22 artisti. Saranno solo installazioni o anche performance? Ma di base all'inizio, quando abbiamo progettato il festival, avevamo fatto nella call anche una parte dedicata alla performance, però poi alla fine, per una serie, diciamo, di scelte nostre e anche di necessità, proprio di impossibilità, riuscire a creare una sezione a parte, alla fine ci sta solo una performance vera e propria, che è DJ Janus, che fa una performance che si chiama Ethertime. È un artista che indossa una maschera tecnologica brevettata da lei, è uno schermo che è posto sulla schiena e ha delle telecamere collegate ad esso, quindi lei riprende in diretta praticamente quello che gli si presenta lungo il suo percorso, per quello ormai è una performance perché è proprio attiva, nel senso che si troverà in un punto particolare del percorso. E quindi questa è effettivamente l'unica vera performance, cioè dove c'è sia appunto un aspetto attoriale, rispetto invece alle altre dove sono più la luce, il video e le macchine a farla da padrona, diciamo. Com'era nato tutto, Diego? Allora, tutto era nato nella prima edizione, quando ci fu un bando di Zeta, ma mi sembra sulla periferia. Io mi sono sempre occupato di illuminazione, di luce, sentivo un po' la necessità mia di riuscire a creare qualcosa che portasse questa forma d'arte a dare la possibilità, insomma, di fruire di questa forma d'arte un po' al pubblico in generale. Visto che in Italia non c'è, ci sono stati piccoli esperimenti che secondo me, insomma, per un certo periodo sono andati bene, poi invece un po' hanno perso di valore. A Roma non era mai successo niente di questo tipo e quindi niente, 3 anni fa, anzi nel 2015, un anno l'abbiamo saltato, nel 2015 ho deciso insomma, di presentare questo progetto, che è andato bene, e poi diciamo, abbiamo continuato negli anni a portarlo avanti, e quest'anno penso che sia una delle edizioni più interessanti rispetto, in senso non la toglie ovviamente agli altri anni, però quest'anno abbiamo questo fatto che abbiamo anche gli artisti stranieri internazionali, non perché diano più valore, però proprio perché loro sono quelli che hanno risposto di più nella call, perché noi abbiamo avuto 120 progetti, di cui quasi 90 era giusto che ci fosse, diciamo, Com'è la situazione a livello internazionale? a livello internazionale, diciamo, in Europa come festival di light art o di appunto di videoinstallazione, video mapping, siamo sicuramente un po' la culla, un po' di tutto, perché tutto parte da Lione, una quindicina di anni fa, mi sembra. E e si sono sviluppate in tutte le capitali europee. Ci sono ormai dei festival che hanno, diciamo, anche un budget abbastanza considerevole e che quindi permette pure di riuscire a creare festival non tanto di spessore, però quanto più, diciamo, più lunghi nel tempo, e anche per riuscire a coinvolgere maggior pubblico e anche turisti possibili. Noi non rientriamo in quella categoria per vari aspetti, diciamo, sia per l'aspetto economico sicuramente in primis, e poi anche perché abbiamo anche un approccio un po' diverso rispetto a alcuni festival, tipo non so, Amsterdam mi viene in mente, o Praga, che un po', diciamo, fanno un misto tra arte e intrattenimento, quindi puntano molto sull'intrattenimento, diciamo, come opera d'arte, quindi come installazione. E sicuramente sono delle scelte importanti che io condivido sicuramente. Per quanto ci riguarda, invece, noi puntiamo un po' di più l'intrattenimento, però sempre con una visione anche un po' particolare da parte degli artisti sull'opera che presentano, perché molti sono proprio site specific e non sono site specific a Roma, come diciamo nell'immaginario di uno skyline con il cupolone, i Pini e il Colosseo, ma uno skyline un po' diverso, fatto insomma di palazzi, palazzine, vicoli, vicoletti, strade, stradine, indiani, afghani, nigeriani, italiani, cinesi, insomma un po' più diverso, molto più vicino a una metropoli vera e propria, però molto meno, diciamo, nell'immaginario della Roma come viene poi immaginata, insomma, internazionalmente. Quindi noi abbiamo scelto questo territorio, intanto perché lo viviamo, lo conosciamo, quindi ci muoviamo abbastanza bene. E soprattutto perché rappresenta un po' il futuro di quello che poi sarà, insomma. Quindi un progetto così, come dire, che sfrutta anche tutta la tecnologia possibile al giorno d'oggi, sembrava giusto farlo in un posto che antropologicamente e socialmente rispecchia quello che sarà il futuro, diciamo, di Roma e dell'Italia e insomma anche dell'Europa. In chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più sul festival? Allora, sicuramente, allora, il sito è www.rgblightfest.com, lì trovate tutte le informazioni. Oppure potete andare sulla pagina Facebook di RGB Light Experience e là trovate tutti gli eventi, l'evento principale, vi potete iscrivere anche a workshop e agli incontri, anzi, stanno quasi finendo i posti, quindi insomma, se riuscite a trovare dei posti per i workshop che sono gratuiti, gli incontri ovviamente sono gratuiti, però sono molto interessanti anche per chi vuole approcciarsi a questa nuova forma d'arte o a fare dei piccoli laboratori dove sono, laboratori light painting che sono molto divertenti e interessanti, quindi lì potete trovare tutte le informazioni per iscriversi poi direttamente su Eventbrite. Bene, ci ricordi anche quanti saranno i luoghi del festival? Allora, i luoghi in tutto sono 23, 24. È un percorso appunto che parte da, non è una partenza, diciamo, il percorso si snoda tra Metro Pigneto C, arriva fino a Metro Malatesta, sempre Metro C, e poi passando per Maranello e Tor Pignattara fino a Parco San Gallo. Uno dei progetti che ci interessa anche spingere un po' di più rispetto agli altri, anche perché è abbastanza particolare, è un progetto che abbiamo scoperto tramite un gruppo americano, Emblematic, che è un gruppo che fa storytelling giornalistico molto particolare, e in questi storytelling abbiamo trovato questo progetto di realtà virtuale che si chiama After Solitary. E quindi sono 10 minuti in realtà virtuale dove non tutti potranno assistere perché abbiamo solo una macchina, purtroppo il pezzo, diciamo, dura 10 minuti, quindi ogni quarto d'ora ci sarà una persona che potrà usufruire e vedere questo monologo all'interno, insomma, di questa realtà virtuale di questo personaggio americano. dove racconta un po' la sua storia di solitudine tra il carcere e fuori dal carcere. E il progetto è molto interessante perché un po' racchiude il teatro, è un monologo fondamentalmente, racchiude la tecnologia perché all'interno ovviamente di questi spazi, ovviamente oltre a stare diciamo, fisicamente con l'occhio, fisicamente sembra di stare proprio dentro una cella carceraria, però poi compaiono scritte, compaiono contributi video, quindi è sicuramente qualcosa che si può. Potrà e sicuramente si svilupperà nel futuro, soprattutto secondo me anche in ambito teatrale, perché è estremamente coinvolgente. E allora ricordiamo la terza edizione di RGB Light Experience Festival Light Art dal titolo Back to the Future a Roma dal 7 al 9 dicembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Diego Labonia. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, ciao. Ciao. Dai.